Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente ancora molta Italia, visto che c'è stato l'intervento del neo presidente del Consiglio alla Camera, poi anche la replica, la conferenza stampa, l'intervento di Monti oggi, al di là di aver toccato anche temi programmatici, come si dice in gergo, quindi che cosa farà questo governo, è stato un intervento in cui, a nostro avviso, per carità, il neo presidente del Consiglio è uscito da questo aplomb un po' accademico, un po' mitteleuropeo, che lo contraddistingue, e si è levato qualche sassolino dalla scarpa, nel senso che ha risposto alle critiche che ormai vanno avanti da giorni sui poteri forti. Monti come espressione dei poteri forti internazionali, di Goldman Sachs, delle grandi banche d'affari e poi dei poteri nazionali, e ha anche risposto in maniera abbastanza ironica ma piccata all'idea che insomma i partiti prima o poi possano staccare la spina. Ha detto: non siamo mica una macchina, e poi se fossimo una macchina dovete spiegarci se siamo un rasoio o una macchina cuore-polmone. E allora anche di questo parleremo, oltre che dell'aspetto diciamo più programmatico. Poi le dichiarazioni che arrivano dall'Europa, non solo la Banca Centrale Europea, la voce oggi l'intervento di Mario Draghi, ma anche la Germania e la Spagna, che alla vigilia delle elezioni torna a superare l'Italia quanto a spread, e quindi la misura di quello che è il rischio di un paese vede una misura più alta, una temperatura più alta sulla Spagna rispetto all'Italia. Era la situazione normale fino a fine giugno, inizio luglio, per cui l'Italia ha sempre viaggiato 40-50 punti di spread sotto il livello spagnolo, a dire che la Spagna doveva offrire interessi più alti rispetto anche all'Italia per trovare finanziatori per il suo debito. Poi da luglio in poi, da fine giugno, inizio luglio, la situazione si è invertita. Noi abbiamo superato purtroppo la Spagna, ma anche di tanto, anche di 100 punti in alcuni momenti. L'effetto Monti, devo dire, non un effetto eclatante. C'è stata una riduzione oggi, lo spread è a 460, per cui sono 100 punti in meno rispetto a una settimana fa, al picco di mercoledì della scorsa settimana. Però soprattutto anche l'effetto elezioni, insomma la Spagna torna sopra l'Italia, non c'è nulla da festeggiare, quindi non ci saranno né campane né galli né niente, perché quando praticamente tu hai uno spread a 470 punti e la Spagna ce l'ha a 484, non c'è niente da festeggiare. Finché non lo vediamo sotto i 350-300 punti non festeggeremo mai. Però è un dato significativo, per cui lo riporteremo. La borsa come va? Milano è l'unica positiva in Europa, più 0,5%, e mentre Parigi perde lo 0,25%, Francoforte perde lo 0,60%, Londra perde lo 0,80%, l'America guadagna lo 0,45%, l'euro quota 1,35%. E come mai Milano guadagna? Beh, perché vanno bene alcune banche, le principali soprattutto. Intesa San Paolo più 3,1%, Ubibanca più 3,3%, Unicredit più 1,74%, Popolare Emilia Romagna più 1,14%, e poi Fondiaria più 0,66%. Bene Campari più 2,5%, sarà la vicinanza del weekend, lo spritz time, la battuta non poteva non farla. Male invece di nuovo, ma si sta allineando l'aumento di capitale alla Popolare di Milano, meno 7%, Mediobanca meno 3%, Finmeccanica continua una settimana da incubo, meno 2,70% anche oggi, Fiat meno 2,5%, l'Automatica meno 2,5%, Luxottica meno 2,20%, Autogrill meno 1,80%, come Parmalat, di Assorin meno 1,5%. Oggi mi confermano dalla regia che il computer, il server tiene, quindi non dovrò imitare stacchi, gufi, fare le campanelle di borsa. Torniamo facciamo le corna, si vedo che vedo gesti scaramantici, quindi torniamo a una definizione normale, poi dovesse ricollare tutto, tornerò a fare anche l'imitatore dei nostri stacchetti musicali. Torniamo seri, le notizie in breve. Allora, aggiorniamo anche il dato sull'oro e il petrolio. In questi giorni li abbiamo seguiti poco. Oro in rialza $1,726. Petrolio a New York apre in rialza $99,8 barile. Il sorpasso spagnolo si è avuto questa mattina. Spagna 504 punti, Italia 500. Però poi, e non accadeva dal 5 agosto, sono più preciso adesso, quando l'Italia superò la Spagna come temperatura del rischio. Adesso siamo a un livello di 460 per l'Italia, più o meno identico anche quello spagnolo, Francia 158, cioè sono scesi tutti, devo dire, gli spread rispetto alla Germania. E poi però il capo del governo di Madrid uscente, Luis Zapatero, ha chiesto una risposta immediata alle istituzioni europee dopo un nuovo attacco speculativo contro la Spagna. Mario Draghi, nel suo primo intervento pubblico fuori dalla Banca Centrale Europea, ha detto: beh, abbiamo ridotto i tassi perché la crescita si è indebolita e le aspettative sulla crescita si sono indebolite. Ormai lo andiamo ripetendo da 3 settimane, il 2012 sarà un anno di stagnazione o giù di lì. E poi ha detto Draghi, basta ritardi sul rafforzamento per le misure del Fondo di Salvataggio Europeo. Dov'è la realizzazione di queste misure? Non possiamo e non dobbiamo aspettare oltre. E questo era un invito ai vari paesi europei, a partire da Francia e Germania, a far capire e a chiarire da dove arriveranno questi 1.000 miliardi che il fondo dovrebbe avere a disposizione per salvare gli stati in difficoltà. Per ora ne ha solo 440. Ed era un invito a fare presto, slogan del nostro quotidiano. E poi sempre Draghi, serve una governance molto più forte, ne parleremo tra un attimo di questo, siamo consapevoli della difficoltà delle banche. E vabbè, ancora due notizie in breve, poi partiamo con la fiducia del governo Monti alla Camera, l'intervento di Mario Monti. Oggi c'è un dato che fa il paio con il dato di ieri, riguarda il fatturato dell'industria a settembre e anche gli ordinativi, ai ai ai, insomma, tocca rispolverare il gufo qua. Perché lo dico? Perché il fatturato ha fatto meno 5,5%, è il peggiore dal 2008 a settembre. E poi, questo è il mese su mese, cioè settembre su agosto. A livello di a settembre 2011 su settembre 2010 invece siamo a un più 2%. Che è trainato questo più 2% solo e esclusivamente dal mercato estero. Gli ordinativi, che però sono importanti perché sono quelli che poi determinano gli andamenti futuri dell'industria, sono calati a settembre dell'8,3%, soprattutto per colpa del mercato interno, anche su base annua, cioè settembre 2011 rispetto a settembre 2010, gli ordinativi industriali hanno avuto una flessione del 3,5%. Non è un caso a questo punto che con questi chiari di luna l'84% dei giovani sia preoccupato per il proprio lavoro. Sarebbe interessante l'altro 16%, magari non lo cerca, magari lavora col papà, non lo so, perché tra i 18 e i 24 anni 84% di giovani preoccupati teme per il futuro, e praticamente tra gli studenti si arriva al 95%, l'osservatorio Confesercenti ISPO. Il sud guida il fronte dei preoccupati con il 74%, poi il nord-est 71%, nord-ovest 70%, centro 68%. La preoccupazione riguarda di più le persone politicamente a sinistra, 77%, e gli apolitici, 75%, anche i centristi, 70%, tra i giovani. È un po' più tranquilli i giovani che votano per o dichiarano di votare per il centro-destra, sono preoccupati per il loro futuro solo il 58%. Allora, ultima notizia, una dichiarazione del neo ministro dello sviluppo economico Corrado Passera. Ha detto Monti, è stato chiarissimo, dobbiamo puntare ad accelerare una crescita sostenibile. Secondo me l'occupazione è il disagio numero uno nel paese. E mentre oggi si è saputo che il nuovo presidente dell'antitrust, che prenderà il posto di Catricalà, che diventa sottosegretario alla presidenza del Consiglio, è stato affidato al professore nonché avvocato Giovanni Pitruzzella. Adesso una chicca, perché la vicenda del San Raffaele l'abbiamo raccontata a suo tempo, il buco nella gestione di Don Verzè. Allora, vediamo di capirci. Il San Raffaele è un ottimo istituto ospedaliero, una grandissima clinica, nulla va a toccare la professionalità dei medici, degli operatori sanitari che vi lavorano, ci mancherebbe. La gestione finanziaria di Don Verzè è stata un disastro. Adesso so che per molti anni è stato osannato come, diciamo, il prete manager, insomma, dipende a che manager facciamo riferimento. Prete sicuramente, manager un po' meno, perché oltre al buco miliardario che sta affliggendo San Raffaele, lo ha portato praticamente al fallimento, c'è tutto il capitolo delle spese di Don Verzè, spese che non si capiva, non si riesce a capire bene che cosa nascondessero. Ma la cosa interessante oggi è quanto ha riferito un testimone ai PM milanesi che indagano sul dissesto finanziario del San Raffaele, e le dichiarazioni sono agli atti dell'inchiesta. Don Verzè e Mario Kahl presero la decisione di acquistare un aereo privato di lusso da quasi 20 milioni di euro perché il prete non accettava facilmente dei normali check-in quando viaggiava in aereo. Spiegazione, capito? Check-in può dar fastidio, c'è la coda, ci sono anche i passaggi preferenziali. Insomma, se tutti quelli che avessero problemi a check-in volessero comprarsi un aereo privato di lusso da 20 milioni di euro, avremmo risolto i problemi del PIL del paese. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo con i temi seri, lasciamo stare il San Raffaele che è serissimo, non è stata seria la gestione, il tema è serissimo, e andiamo subito all'intervento di Mario Monti oggi alla Camera. ...556 voti favorevoli, 61 contrari, un'altra maggioranza bulgara, come si dice in questi casi, ma era ovvio. Mario Monti nel suo intervento ha detto no, non esiste una contraddizione tra federalismo e coesione sociale, e questo nella prima parte nel suo intervento alla Camera, non nella replica, però sentiamo questo passaggio. Per quanto riguarda il federalismo, permettetemi di dire che non vedo nessuna contraddizione tra il rispetto per quanto è già stato deciso in materia di federalismo, che ovviamente il governo intende seguire da vicino nel processo di attuazione per quanto riguarda in particolare il federalismo fiscale, e l'avere istituito una specifica attenzione alla coesione territoriale, che, se permettete, è un valore che interessa a tutti, poi dipende dalle modalità con cui viene realizzato, e su questo, come su tutti gli altri temi, saremo aperti alla critica e al dibattito. Questo per quello che riguarda il federalismo. Poi c'è un altro aspetto che riguarda la parte estera. Allora, poi arriviamo alla polemica interna. È vero, a meno che non ci sia sfuggito, non vi è stato nessun riferimento esplicito al contenzioso con la Svizzera. Lo dico a chi ce lo chiede: Francia, Germania e Gran Bretagna hanno ottenuto dalla Svizzera decine di miliardi di euro con una specie di patteggiamento per i conti correnti dei cittadini tedeschi e britannici nelle banche svizzere. Si è fatto un calcolo, siccome dovrebbero esserci circa, stando a quello che riportano le autorità elvetiche, 130 miliardi di euro di cittadini italiani depositati in conti correnti svizzeri, un accordo simile a quello ottenuto da Gran Bretagna e Germania porterebbe dai 15 ai 20 milioni, miliardi sono sempre stime, nelle casse dello Stato. Speriamo che si arrivi, visto che l'hanno fatto due paesi del genere, potremmo farlo anche noi. Ha parlato invece di Francia e Germania per dire: attenzione, non vi chiedo una fiducia cieca, a breve ci sarà un incontro con i leader francesi e tedeschi per cercare di risolvere la crisi. Io non vi chiedo una fiducia cieca, a tutti chiediamo una fiducia non cieca, una fiducia vigilante, ma pensiamo che se noi faremo un buon lavoro nel darci o ritirarci la fiducia, forse voi dovrete anche tenere conto di quali sono le conseguenze per quanto riguarda la fiducia dei cittadini in voi. Sono lieto infine di annunciare a coloro che suggeriscono, e condivido interamente questo suggerimento, di far valere di più il pensiero e le ragioni e la forza dell'Italia nelle sedi europee. Sono lieto di annunciare che la settimana prossima avrò due visite, una a Bruxelles alle istituzioni comunitarie e una che ho concordato ieri su loro proposta telefonicamente con il Presidente Sarkozy e il Cancelliere Merkel, di un incontro a tre per avere d'ora in poi permanentemente il contributo dell'Italia nella soluzione dei problemi dell'euro. E qui già ci avviciniamo, a mio avviso, a quello che è, insomma, la nota distintiva dell'intervento di Mario Monti oggi. E c'è un po' di risposte a quanto scritto da alcuni giornali. Qui c'è un riferimento forse anche a Giuliano Ferrara oggi sul Foglio, agli attacchi continui del giornale di Feltri, Sallusti e Feltri, insomma. Il primo riferimento è, insomma, attenzione alla classe politica, perché noi chiediamo fiducia a voi, però è sulla base della fiducia che ci darete che il paese avrà fiducia in questa classe politica. Non è che se non ci date fiducia poi a voi non succede niente, è un avvertimento. E poi il fronte franco-tedesco, appunto, ho assolutamente intenzione di far recuperare all'Italia quello che è il ruolo nella gestione dell'euro e delle istituzioni dell'euro, a partire dalla Banca Centrale Europea, quello che è stato il suo ruolo storico. Sulla Banca Centrale Europea però Monti ha anche aggiunto: non vedo ragioni per cambiare l'ordinamento della BCE. Qui personalmente la pensiamo in maniera un po' diversa. Giovedì vi sarà in Francia l'incontro tra Mario Monti, Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, e quindi si apre da 2 a 3 l'incontro, un incontro importantissimo. E poi sempre Mario Monti, facciamo sentire anche questo Mario Monti sulla Banca Centrale Europea, che mi interessa molto. Ho incontrato il presidente della BCE Mario Draghi proprio nel periodo delle mie consultazioni, o leggermente, insomma, sabato scorso, così come avevo incontrato venerdì scorso il governatore della Banca d'Italia. Ho anche contatti che non consistono in incontri fisici con queste personalità. Il tema della BCE fa parte dei temi, più che il tema della BCE, le decisioni della BCE che, come sappiamo, nell'ordinamento attuale istituzionale europeo, che per parte mia non vedo ragioni di modificare, ma le decisioni prese sono certamente oggetto di valutazione, di commento, ma nel senso della divisione delle responsabilità che esiste tra autorità politica, autorità monetaria, eccetera. E questa è la parte più istituzionale di Mario Monti, in cui già qualche sassolino si è levato dalla scarpa: il ruolo che l'Italia giocherà a livello europeo, l'incontro di giovedì prossimo all'Eliseo con Nicolas Sarkozy e Angela Merkel, importantissimo, è la prima volta che i due ad alcuni definiti Alfred e Mildred, si aprono, diciamo, all'Italia in maniera ufficiale e netta. Dopo il meteo, invece ascolteremo Mario Monti che dice alla politica italiana, ma anche alcuni giornali, ripeto, alcuni editoriali che abbiamo visto in questi giorni, attenzione, noi, io non capisco questa frase, possiamo staccare la spina quando vogliamo, non siamo una macchina, ha detto Monti, non siamo, e se fossimo una macchina non ho capito se saremmo un rasoio oppure una macchina a cuore polmone, intendo durare fino alle elezioni, attenzione, se voi sfiduciate noi è poi l'opinione pubblica che avrà meno fiducia nella classe politica attuale. E qui c'è un Monti che da professore, a mio avviso, diventa sempre un po' più presidente del Consiglio, come è giusto che sia visto il ruolo. 349-238-6666 per i vostri sms, la borsa ha chiuso più 0,42%, l'unica borsa positiva oggi in Italia, lo spread è sotto quello spagnolo, di questo torniamo a parlare dopo il meteo. ...17:34, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, sì, chiedo venia, non erano Alfred e Mildred, erano George e Mildred, però torniamo ai temi di Mario Monti per farvi ascoltare altri due passaggi, poi con interventi sia di Bersani che di Maroni. Il Mario Monti che vorrei farvi ascoltare adesso del suo intervento oggi è quello in cui risponde a chi dice, insomma, tu sei l'espressione dei poteri forti, e poi aggiunge anche attenzione, si continua a parlare di staccare la spina, però noi non siamo mica una macchina. Io di poteri forti, lo dico con molto rispetto, di poteri forti in Italia non ne conosco. Magari l'Italia avesse un po' di più qualche potere forte. E se per poteri forti intendiamo quelli veri, ci sono alcuni poteri forti nel mondo. Io ho avuto il privilegio di vederli quasi tutti, i veri poteri forti del mondo, nelle mie funzioni di commissario alla concorrenza. E spero che gli onorevoli che hanno manifestato dubbi sulla mia indipendenza di giudizio e di azione, magari sono, molti di loro sono giovani, quindi può darsi che non ricordano vicende di 10 anni fa, ma questi poteri forti se le ricordano ancora. E il giorno in cui proibì una fusione tra due grandissime società americane, benché fosse intervenuto anche pubblicamente il Presidente degli Stati Uniti su di noi, su di me, l'Economist scrisse: il mondo degli affari americano considera Mario Monti il Saddam Hussein del business. Scusate questa considerazione, ma capirete quindi perché siamo leggermente disturbati, ma tocca a noi dare la prova che voi non avete ragione da queste allusioni. Se possibile rendere questo concetto di profonda dipendenza del governo dal Parlamento con espressioni diverse da quella di staccare la spina, sarei grato, perché di nuovo avremmo dei problemi di identità, non ci consideriamo un apparecchio elettrico e poi saremmo forse incerti se siamo un rasoio o un polmone artificiale. Uno degli intervenuti di questa mattina mi ha detto: scusi se la chiamo ancora professore, vi prego continuate pure a farlo, perché un altro mio titolo, quello di Presidente del Consiglio, durerà poco. E quindi come diceva una volta un mio eminente predecessore, senatore a vita Giovanni Spadolini, i presidenti passano, i professori restano. durerò e dureremo poco. Quello che è mia intenzione naturalmente è di proiettare la mia squadra di governo e la nostra collaborazione sulla prospettiva da qui alle elezioni e non mi accingerei neanche, questo l'ho chiarito a tutti con schiettezza, è un compito già quasi impossibile quello che ho l'onore di ricevere, ci riusciremo. Non avrei potuto naturalmente neanche prendere in considerazione di accettare per un compito di questo genere, nel quale coinvolgo personalità di primo rilievo sul piano professionale e istituzionale, con la predeterminazione di una durata più breve di quella. Allora, lungo, ma volevamo farvi ascoltare tutti i vari passaggi, perché insomma le risposte, poi vi torniamo fra 40 minuti, ma sono state nette. Forse anche questo è un modo per capire lo stile nuovo, diverso del neo presidente del Consiglio, perché insomma ha detto: ma che è sta storia dei poteri forti? Poi vi ragioniamo. Quando ero a Bruxelles come commissario europeo ero la bestia nera, il Saddam Hussein dei grandi gruppi. Devo dire che in effetti nel 2001 bloccò la fusione tra General Electric e Honeywell e nel 2004 multò per mezzo miliardo di euro Microsoft. E poi ha detto: ma che è sta cosa, è staccata la spina? Usate un'altra espressione. È chiaro che siamo un governo che trae la sua forza dal Parlamento, però non è bello sapere che una mattina uno si sveglia e stacca la spina. Non siamo una macchina. Le reazioni oggi. Allora, l'ex presidente del Consiglio Berlusconi a Montecitorio ha detto, dopo l'intervento di Mario Monti il primo, la situazione dell'euro e del mercato è tale per cui siamo consapevolmente arrivati a questa situazione, che non rientra nei canoni della democrazia, che prevede che i governi siano eletti dalla gente. È un'invenzione italiana per dare una risposta a una situazione difficile, però attenzione, il governo Monti opererà in maniera tale da essere utile al paese per tutto il tempo che rimane. Il leader del PD Bersani ha detto di la svolta dimostra che il paese può ancora stupire, riprenderemo il nostro posto nell'Unione Europea. Questa è la risposta dopo che Monti ha detto avrò un incontro la settimana prossima con Angela Merkel e Nicolas Sarkozy. Noi desideriamo che l'Italia torni al suo posto in Europa con la dignità di un paese fondatore. Bene, molto bene, Presidente, che noi riprendiamo il nostro posto fra le prime tre realtà di questa Europa. Molto bene. E desideriamo che l'Italia aiuti l'Europa ad essere Europa, perché il problema non è l'euro, ma è l'Europa che non c'è. E se noi dobbiamo togliere l'Italia dal luogo più esposto della crisi, dove non dovremmo essere, dove siamo stati portati drammaticamente e pericolosamente, questo non basta però. Perché se non si correggono alcuni fondamentali delle politiche europee che abbiamo visti fin qui, nessuno può davvero salvarsi. Nessuno. E poi l'unica opposizione che esiste formalmente a questo governo, che è quella della Lega, l'ex ministro Roberto Maroni ha detto: beh, l'opposizione si fa meglio senza poltrone, spero che il PDL non si presti a manovre strane sull'ICI e sulle pensioni. Se il governo va a rivedere il patto di stabilità, noi lo voteremo. Ascoltiamo Roberto Maroni al microfono della nostra Elisabetta Fiorito. Abbiamo abolito l'ICI sulla prima casa, reintrodurre l'ICI sulla prima casa vuol dire essere masochisti per noi. Abbiamo detto non si toccano le pensioni, sostenere una riforma che cancella le pensioni di anzianità vuol dire andare contro quello che abbiamo detto e scritto per 3 anni e mezzo. Noi siamo coerenti, spero davvero che il PDL non si presti a manovre strane solo perché ha timore e ha paura di quello che potrà succedere in Parlamento. Noi non abbiamo né timore né paura di nessuno. All'opposizione spetta una sola cosa: fare opposizione. non chiedere poltrone. Io sono contrario alle poltrone. Penso che l'opposizione si fa meglio stando lontani dalle poltrone che non stando seduti su poltrone che ti costringono in qualche modo poi a entrare nel processo e gestire le proposte della maggioranza. Questa è la mia opinione personale. Lascio ad altri l'incombenza. Per me non ho chiesto e non chiedo nulla se non quello di fare il parlamentare, membro del gruppo, mettendo a frutto le mie capacità, quelle poche capacità che ho e la grande esperienza che ho accumulato da ministro del welfare e da ministro dell'interno. Io mi aspetto che lui, per esempio, faccia una cosa che noi non siamo riusciti a fare per l'opposizione del Ministero dell'Economia, per rivedere il patto di stabilità, per consentire ai comuni virtuosi, quelli che hanno i soldi in cassa, di spenderli. Se già ci fosse come primo provvedimento questo, io credo che potremmo votare a favore. Allora, interrompiamo qui la lunga pagina che abbiamo dedicato all'intervento, ma era necessario, del neo primo ministro, ma anche le repliche. Poi sul tema dei poteri forti, torniamo, non abbiamo, lo dico a chi scrive in maniera un po' polemica, non abbiamo nessun problema a parlarne. Abbiamo sempre attaccato la grande finanza per i disastri che ha compiuto dal 2007, ma anche prima li ha iniziati. In poi nessun problema, bisogna capire se è un'accusa speciosa, se è un'accusa politica, se è un'accusa così puramente oppure se c'è dell'altro sotto. Voglio dire, insomma, lasciatela dire tutta. Quando certi colleghi che magari lavorano per i giornali dell'ex presidente del Consiglio parlano di poteri forti, bisogna anche capire perché non ne parlassero prima. Anche Berlusconi ha una figlia che siede nel CDA di Mediobanca, è socio di Mediolanum e ha anche qualche altra società che controlla in questo paese, per cui cerchiamo di capire, sono poteri forti locali e vabbè, oppure se veramente c'è un'ipotesi di poteri forti internazionali che vanno a dirigere ed eventualmente anche a colonizzare questo paese, che è tutta un'altra storia. Vi rimando tra mezz'ora, adesso c'è il traffico, poi la borsa. :17:47, allora la borsa italiana ha chiuso unica tra le borse principali positiva, devo dire non tantissimo, lo 0,23%, però Parigi ha perso lo 0,44%, Francoforte lo 0,80%, Londra pure lo 0,80%, l'America guadagna lo 0,20%, allora senza doverla imitare oggi la borsa. UbiBanca più 3,70, Campari più 3,20, Popolare Emilia Romagna più 2,70, Intesa San Paolo più 2,40, Buzzinice in più 1,70, Mediaset più 1,5%. C'è poi lo strano caso della Popolare di Milano che oggi è andata veramente sulle montagne russe. Alla fine chiude con un meno 7%. Allora, e Mediobanca anche perde, scusatemi, il 3,60%. Allora, UbiBanca, Popolare Emilia Romagna, ma soprattutto Intesa Unicredit da un lato, Popolare Milano dall'altro. Ciao Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Sì, il calo dello spread molto pronunciato oggi tra i titoli di Stato tedeschi e quelli italiani, che è sceso a 460 punti base, ha certamente favorito le principali banche. Tu facevi il caso di UBI, della Popolare Emilia Romagna e anche di Intesa San Paolo, che ha guadagnato il 2,4%, snobbando di fatto l'addio del numero 1 Corrado Passera. Dall'altra parte invece delle blue chip in rosso troviamo la Popolare di Milano, che perde quasi 7% nell'ultimo giorno di aumento di capitale, insomma le premesse non sono delle migliori. E poi Mediobanca che cede il 3,6% e sul rosso di Piazzetta Cuccia alcuni operatori, per spiegarlo, suggeriscono il fatto che Mediobanca sia garante in pratica dell'aumento di capitale della Popolare di Milano, quindi il timore di un inoptato che per esempio dagli analisti di Intermonte viene stimato nel 10% va poi anche a penalizzare il titolo di Mediobanca. E questo sul mondo bancario. Campari aveva fatto, adesso al di là della battuta dello spritz time, ma aveva fatto meno 14% nelle ultime quattro sedute. Sì, Sì, subito dopo i conti, che peraltro erano positivi, sì, con un utile netto a oltre 170 milioni, Campari aveva perso il 14%. Ricordiamolo però che Campari è uno dei pochi titoli che quest'anno, dal 1 gennaio, ha un bilancio positivo. Infatti era 4,8 euro il 1 gennaio, oggi ha chiuso a 5 euro, che visto l'andamento di borsa, che ha perso praticamente il 30% da inizio anno, è sicuramente un dato degno di nota. Allora, Mediaset, lì c'è finalmente un'offerta, se ho ben visto, dalla Time Warner ha rifiutato l'offerta di Time Warner, e quindi insomma la vicenda Endemol potrebbe conoscere una svolta o no? Sì, una vicenda molto intricata, anche perché i fondamentali finanziari di Endemol sono molto penalizzati in questo momento, c'è in ballo una ristrutturazione di un debito da 2,7 miliardi, ricordiamo che Endemol è colei che produce il famoso Grande Fratello. E c'è stata questa offerta di Time Warner, Mediaset, che tra gli azionisti di Endemol, invece ne ha fatta un'altra insieme a un fondo di private equity, Cressidra, per rilevare il 51% di Endemol. Sembra che l'offerta di Time Warner sia stata rifiutata, quindi Mediaset torna prepotentemente alla ribalta e quindi gli operatori di borsa premiano il titolo, che oggi guadagna una percentuale dell'1,47%. Fiat meno 3,16, Finmeccanica, spendiamo una parola, anche se è un calvario, insomma è stata una settimana da incubo per Finmeccanica dopo i conti, meno 20% martedì, vado a memoria, dopo i conti, con un utile che è passato da più 322 milioni dell'anno scorso a meno 322 milioni di quest'anno, dei primi 9 mesi, con il neo AD Orsi che ha detto che l'ultimo trimestre sarà ancora peggio, con il presidente Guaguaglini, ex amministratore delegato, che non si è nemmeno presentato al consiglio di amministrazione. Oggi un altro meno 2,80% a 3,20 euro. Quanto ha perso in settimana? Il 30%. Direi che sono un dato che dovrebbe far riflettere tutti, e anche soprattutto i piccoli azionisti che anni fa in sede di privatizzazione avevano comprato il titolo e poi oggi sono rimasti a dir poco scottati. Sì, meglio, insomma, in generale è meglio non vendere ai minimi, però. Allora, ancora sui Luxottica, qui c'è una vicenda che riguarda parzialmente anche il governo, cioè ci si sta interrogando su chi prenderà il posto di Corrado Passera nel gruppo Intesa San Paolo. Adesso, essendoci un direttore generale vicario che è appunto Morelli, è Morelli che ha preso le veci di Passera, però molti ipotizzano che questo sia solo un passaggio interlocutorio. Cosa c'entra Luxottica, Ciao Condine? Luxottica c'entra perché oggi in descrizione di stampa, in particolare del Corriere della Sera, indicavano Corrado e Andrea Guerra come possibile erede di Corrado Passera, una prospettiva che evidentemente... Andrea Guerra, nostro ospite già altre volte, è il numero uno di Luxottica. Sì, il numero uno di Luxottica evidentemente ha spaventato gli operatori perché il titolo ha perso il 2,6%, insomma potremmo dire... In assenza dire di altre notizie, diciamo. Sì, potremmo dire che Andrea Guerra, guardare l'andamento vale di borsa di oggi, è importante per Luxottica. Vale il 2,6% di Luxottica. I manager fanno la differenza, non la fanno così tanto quanto pensano e non la fanno così tanto quanto vengono pagati delle volte, ma questo è un altro discorso. L'Automatica meno 2%, Prismia meno 1,80 come Parmalat, Telecom meno 1,60, Autogrill meno 1,5 come Pirelli, Diasorin meno 1,20 come Exor. Invece tra chi guadagna, oltre a Mediaset più 1,5%, l'abbiamo appena raccontata, Buzzi Unicem più 1,70, Unicredit più 14, Snam più 1%, Eni più 0,70%. Andiamo a vedere i migliori e peggiori in assoluto di questa giornata. Volete sapere dell'euro? È a quota 1,3511. Beghelli più 15,1, Olidata più 9,84, Bitim più 8,47, Safilo più 6,45. Mondo TV meno 11,70. Media Contact meno 10,60, Meridie meno 9,33%. Una domanda però, Ciao Condina, come mai Milano oggi è, seppur di poco, l'unica positiva? E le altre? Fondamentalmente per il calo più pronunciato dello spread tra BTP e Bund. Milano poi è un listino che è molto, in particolare per il FTSE MIB, è molto concentrato sulle banche, e le banche, come sappiamo, sono i principali beneficiari di un calo del differenziale di rendimento fra i titoli di Stato italiani e tedeschi. e quindi c'è l'effetto boom. Ricordo che oggi per la prima volta dall'inizio agosto si è superata la Spagna, è tornata ad avere uno spread, quindi un costo come rischio paese più alto rispetto a quanto non abbia l'Italia, non capitava da inizio agosto. Io ringrazio Ceo Condina e un buon fine settimana a te, a tutti i colleghi di Radio Colli Sole 24 Ore, a chi scrive la stessa considerazione che lei ha fatto per i manager, che sono importanti ma non così importanti come pensano e che sono pagati anche forse delle volte più di quanto siano importanti, vale anche per i giornalisti. Sono assolutamente d'accordo con lei, a partire da chi vi parla. Adesso però il GR e poi torniamo sui Mario Monti, poteri forti, Mario Monti, governo a tempo, e anche le indicazioni che arrivano dall'Europa. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, una risposta a un ascoltatore, un paio che scrivono sul tema del neo ministro Clini e sul nucleare. Allora, l'ha detto ai nostri microfoni, si è poi anche corretto, ma una notizia vecchia mi sembra ormai, ho capito che l'abbiamo avuta noi per primi, l'abbiamo data, e poi lui si è anche corretto sulla frase sul nucleare. Invece vorrei tornare su quello che è il doppio fronte, chiamiamolo così, di Mario Monti. Un fronte è estero, e questo è indubbio, e l'altro fronte invece è tutto interno, cioè il rapporto con la maggioranza che lo sostiene, e cioè tutti tranne la Lega. Abbiamo sempre detto che questo è un governo tecnico, nel senso che è fatto di tecnici, ma è un governo che ha un assoluto appoggio, come solo può essere in Italia, politico, cioè deve essere votato legge per legge, emendamento su emendamento, dal Parlamento. Quindi è tecnico solo per le persone che lo compongono, non per la sua qualità. Partiamo però prima dal fronte europeo, perché a mio avviso, al di là delle preoccupazioni oggi di Mario Draghi, che ha detto attenzione, si dia una mossa l'Europa sul fondo di salvataggio europeo, perché ancora Draghi è stato molto netto, ha detto basta ritardi sul rafforzamento del fondo europeo salva stati, dov'è la realizzazione di queste misure, non possiamo aspettare oltre, serve una governance europea molto più robusta. C'è stato anche l'intervento di Mario Monti sull'Europa, importante secondo me per due motivi. Uno, perché ha detto sostanzialmente l'Italia avrà un nuovo ruolo in Europa, e poi è arrivata la notizia che giovedì prossimo vi sarà un vertice a tre tra Nicolas Sarkozy, Angela Merkel e Mario Monti all'Eliseo, quindi a Parigi. E poi però appunto sul ruolo che l'Italia deve avere ha detto insomma l'Italia è il partner fondamentale assieme a Francia e Germania per risolvere questa crisi. Nel farlo ha già introdotto il fronte anche interno, cioè la fiducia. Noi vi chiediamo, cari parlamentari, la fiducia, ma sappiate che la fiducia che date a noi è anche poi la fiducia che il paese darà a voi, e quindi se ce la levate, in qualche modo, aggiungo io, la togliete anche voi. Sentiamo questo doppio passaggio in cui Monti ha prima il fronte interno e poi il fronte estero come riferimento. Io non vi chiedo una fiducia cieca, a tutti chiediamo una fiducia non cieca, una fiducia vigilante, ma pensiamo che se noi faremo un buon lavoro nel darci o ritirarci la fiducia, forse voi dovrete anche tenere conto di quali sono le conseguenze per quanto riguarda la fiducia dei cittadini in voi. Sono lieto infine di annunciare a coloro che suggeriscono, e condivido interamente questo suggerimento, di far valere di più il pensiero e le ragioni e la forza dell'Italia nelle sedi europee. Sono lieto di annunciare che la settimana prossima avrò due visite, una a Bruxelles alle istituzioni comunitarie, e una che ho concordato ieri su loro proposta telefonicamente con il Presidente Sarkozy e il Cancelliere Merkel di un incontro a tre per avere d'ora in poi permanentemente il contributo dell'Italia nella soluzione dei problemi dell'euro. Forse alcuni hanno già capito. Giulio Sapelli, lo spettro che si aggira tra l'Europa e di nuovo tra noi, insegna economia, storia dell'economia alla Strada di Milano, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera, professore. Buonasera, dottore, grazie. Lei è l'ascoltatore. È riatterrato con il suo mantello nero. Certo. Nel nostro programma. Allora, fronte europeo e poi veniamo invece dopo il traffico al fronte italiano e a qualche sassolino che a mio avviso Monti si è tolto dalla scarpa, soprattutto quello sui poteri forti. Allora, insomma, la fiducia che date a noi, detto Monti, è la fiducia che vi beccate voi del paese e poi il ruolo dell'Italia verrà rafforzato e giovedì c'è l'incontro con Sarkozy e Angela Merkel. E condivide? Beh, condivido in primo luogo, lei ne converrà, anche i telescoltatori, che il professor Monti è sicuramente un professore di comunicazione, perché veramente è un comunicatore di se stesso straordinario, no? Perché, come ha sempre fatto, quindi questo mi fa molto, diciamo, gli fa onore, è una persona che sa costruire un'immagine di sé perfettamente, questa cosa che Merkel e Sarkozy l'aspettano, hanno telefonato loro, veramente una cosa, devo dire, chapeau. Ma detto questo, sì, insomma, mi pare che ormai l'operazione si stia delineando bene, non ha una grande influenza sui mercati, che mi pare che i mercati... Oggi l'Italia è tornata sotto la Spagna sullo spread, però siamo sempre a livelli altissimi, sono d'accordo con lei. Siamo a livelli altissimi anche perché adesso l'oligopolio finanziario mondiale sta tosando anche le pecore francesi, no? Quindi a noi ci lascia un po' tranquilli, che non può uccidere il gregge, diciamo, lo tosa e poi dopo si sposta. Quindi, però la cosa che mi pare da questa dichiarazione, diciamo un po' supponente anche un po', io fossi un parlamentare mi sarei un po' adontato, ma però devo dire riflette la realtà che questo governo rappresenta poi dopo quelli che sono gli interessi, certamente non particolari ma generali, di un grandissimo fronte, quel fronte che abbiamo visto unito più volte, che va da Confindustria, Redimpresa, ABI, i sindacati dei lavoratori, quindi c'è tutto questo aspetto dell'Italia del lavoro e della produzione che si aspetta da questo governo di tecnici, devo dire tecnici che poi sono così lontani dalla politica, perché se vediamo le loro biografie potremmo identificarli molto bene con un'area politica, quindi vedo con piacere che il mio amatissimo manuale Cencelli funziona anche nei regimi tecnocratici, ecco come ci stiamo avvicinando ad essere noi. Allora, adesso ho il traffico, le faccio ascoltare però prima una dichiarazione che Mario Monti ha reso dopo una domanda della nostra Elisabetta Fiorito in conferenza stampa, perché è una parte più diciamo programmatica sul pacchetto di misure e poi dopo torniamo sui poteri forti. Allora, Mario Monti sul pacchetto di misure che intende prendere. Presidente, scusi, Radio 24, ma saranno i provvedimenti quelli più importanti, saranno fatti in decreto legge o sotto forma di disegno di legge? Porrò massima cura in una cosa che ad un aspetto che sostengo da tempo, che sostenevo anche quando non avevo questa responsabilità, e cioè che misure sia di ulteriore risanamento finanziario sia di incisive riforme strutturali per la crescita hanno maggiore probabilità politica di essere adottate e accettate e di essere colte dal Paese se sono presentate in forma di pacchetto che comporti una partecipazione al da farsi, magari anche in forma di sacrifici, non lo escludo, da parte di un po' tutte o diverse categorie. Naturalmente cercheremo di fare in modo che lo sforzo da fare sia richiesto soprattutto a quelle categorie che finora meno hanno dato in termini di contributo al risanamento e alla modernizzazione dell'Italia. 18:18 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, abbiamo capito dalla domanda che gli ha fatto la nostra Elisabetta Fiorito che il pacchetto di misure sarà un maxi emendamento, un maxi pacchetto in cui infilare tutte le misure e devono pagare quelli che meno hanno contribuito. Questa è una frase un po' più ambigua, però torniamo a parlarne con Giulio Sapelli, affrontando adesso il tema delle accuse tutte interne a chi giova, a chi sostiene in realtà questo governo Monti. Poteri forti, lo dico con molto rispetto, di poteri forti in Italia non ne conosco. Magari l'Italia avesse un po' di più qualche potere forte. E se per poteri forti intendiamo quelli veri, ci sono alcuni poteri forti nel mondo. Io ho avuto il privilegio di vederli quasi tutti, i veri poteri forti del mondo, nelle mie funzioni di commissario alla concorrenza. E spero che gli onorevoli che hanno manifestato dubbi sulla mia indipendenza di giudizio e di azione, magari molti di loro sono giovani, quindi può darsi che non ricordano vicende di 10 anni fa, ma questi poteri forti se le ricordano ancora. Il giorno in cui proibì una fusione tra due grandissime società americane, benché fosse intervenuto anche pubblicamente il Presidente degli Stati Uniti su di noi, su di me, l'Economist scrisse: il mondo degli affari americano considera Mario Monti il Saddam Hussein del business. Scusate questa considerazione, ma capirete quindi perché siamo leggermente disturbati, ma tocca a noi dare la prova che voi non avete ragione da queste allusioni. Allora, in effetti nel 2001 Mario Monti bloccò la fusione tra General Electric e Honeywell, un'operazione da 42 miliardi di dollari per cui si era spesa fortemente la Casa Bianca di George W. Bush, molte pressioni anche a livello europeo, telefonate tra la Casa Bianca e alcuni governi europei, ma Monti tenne duro. Poi nel 2004 la famosa multa a Microsoft da mezzo miliardo di euro e la condanna al gruppo di Bill Gates a consegnare ad altri produttori codici sorgente di Windows. E devo dire che l'anno scorso a Monti è stato consegnato negli Stati Uniti, primo non americano, il premio Antitrust Achievement Award. Allora, professor Sapelli, qui c'è un problema di poteri forti internazionali, Goldman Sachs, banche, la Bilderberg, la trilaterale, il complotto pluto giudaico massonico, o c'è un punto di poteri interni al paese che, come sempre, vedono una loro espressione anche nella politica? Era così per il governo Berlusconi, adesso sarà forse così anche per il governo Monti, non lo so, mi dica. Ma non v'è dubbio, innanzitutto non bisogna usare scientificamente la dizione poteri forti, perché il problema vero è, cioè, o la gente vuole capire o non vuole capire. Il problema vero è che in qualsiasi assetto economico, democratico nel senso che l'ultima parola spetta poi dopo almeno formalmente alla rappresentanza territoriale, la decisione, il policy making è sempre un intreccio tra quello che grandi scienziati politici nordamericani ed italiani prima di loro, Charles Lindbloom, De Haal e prima Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto, chiamavano le poliarchie, cioè la democrazia pura non esiste. qualsiasi decisione è sempre un intreccio tra quelli che sono i poteri situazionali di fatto, cioè io per il solo fatto che occupo 100.000 dipendenti, qualsiasi Parlamento prima di fare una legge che mi penalizzi, che penalizzi quell'azienda che ha 100.000 dipendenti, ci penserà 6 volte, perché creerà dei grossi problemi per l'occupazione e quindi per il consenso elettorale. Quindi questa è qualcosa che vale in qualsiasi paese, in Italia come in Birmania, come e soprattutto come negli Stati Uniti. Certo non vale in Unione Sovietica, dove manca l'altro corno, cioè manca la democrazia rappresentativa, valeva in Unione Sovietica. Ecco. Quindi questa discussione, così come è posta, e se posso permettermi, così come ad essa si risponde, non ha nessun senso scientifico. Poi mi rendo conto che la separazione tra la cultura e la politica o qualsivoglia governo ormai è definitiva. Detto questo, rilevo 2 cose. Uno, che il professor Monti non ha risposto alla domanda della sua giornalista, lei avrebbe dovuto rivelarlo, se farà passare i provvedimenti per decreto legge o legge. Questo mi pare una cosa che dobbiamo... Sì, no, lui ha detto che farà un maxi pacchetto, come ho capito io. Allora sì, ma non si capisce niente, non è una domanda, non è una risposta. Vedi la capacità di comunicare, no? Non ha comunicato che cosa farà, perché se farà un decreto legge sarà una cosa. Se dovrà andare in Parlamento, io spero che non faccia un decreto legge, perché se fa un decreto legge vuol dire che è un governo terribilmente debole. Invece noi abbiamo tutto l'interesse che questo governo duri fino al 2013. Perché se non dura il 2013 facciamo una figura verso chi? Ma verso i poteri europei, istituzionali. E Monti è l'espressione di questa cosa qui, dei poteri situazionali, infatti nazionali, che non ne potevano più della classe politica e del governo. Infatti avevano, quante volte la signora Marcegaglia ha messo, è salita e ha detto delle cose terribili, quante volte... De Rita ha detto delle cose terribili, che è l'ideatore di Rete Impresa, quante volte il buon Bonanni, che rappresenta il sindacato riformista, ha detto basta, non se ne può più. Quindi Monti rappresenta questa espressione, naturalmente è una espressione tipicamente poliarchica. Poi parlare in Italia ormai di poteri forti, ormai in Italia c'è solo più il piccolo establishment, perché l'establishment si è liquefatto. Si è liquefatto, non ci sono più le grandi imprese, non ci sono più le grandi famiglie imprenditoriali, ci sono dei piccoli e nuovi imprenditori nati da quel coacervo di privatizzazioni senza liberalizzazioni che sono stati gli anni 90. E poi, per nostra fortuna, ci sono quelli che rappresentano le medie imprese. Quindi, voglio dire, è tutto molto più modesto. Guardi, tutta questa cosa, no? Tutto finirà, non come diceva Eliot nella sua straordinaria poesia dei 4 quartetti, non con un Big Bang, ma con uno sbadiglio. Perché questa conversazione, i poteri forti, mi fa veramente sbadigliare. Perché proprio non ha nessun senso, non ha nessun senso. Questo la cosa rappresenta? Rappresenta la crisi fondamentale della rappresentanza politica davanti agli interessi economici, perché sono quelli anche dei sindacati e dei lavoratori, che non mi sembrano forti, no? In questo momento, perché diciamo li stanno massacrando, no? I lavoratori. Quindi usare questo termine, poteri forti, è un'offesa all'intelligenza. E allora, professor Giulio Sapelli, con questo grande sbadiglio, lei riprende il volo, immagino, sì, no? Sì, salgo sul mio cavallo e con la mia fantastica falce dorata. Allora, non sbadigli troppo, io dal mio punto di vista è del tutto irrilevante in questa trasmissione, sono parzialmente d'accordo con lei, è vero che qua di poteri forti se ne vedono gran pochi. E ci sono tanti poteri deboli, è anche vero che non bisogna fare le verginelle e non immaginare che se... tutto un insieme di categorie che rappresentano, di soggetti che rappresentano il mondo del lavoro, delle pensioni, delle aziende e quant'altro, chiedono un cambiamento, è chiaro che questo poi ha un suo risultato politico. Le demi vierge, come dicono in francese, non vanno lontano. Grazie Giulio Sapelli, grazie Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione anche questa settimana. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana. Noi ci risentiamo come sempre lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.